I promotori nel 1957 cominciarono a chiedere anche qualche soldino ai tantissimi cittadini di Corticella e non solo di Corticella, e poi piano piano con il lavoro volontario di tanti fu appunto edificata la Casa del Popolo e fu inaugurata nel 1963. Partiamo da lì, insomma, da questa storia antica e che ripercorreremo con tante foto, documenti, un lavoro incredibile che ci ha impegnato da mesi e mesi, e abbiamo un po' la presunzione di riuscire a raccontarlo in un'ora e mezza. Io mi auguro a tante persone che amano questo tipo di luoghi. Lo facciamo senza troppa nostalgia, vorrei dirlo, ma con avendo ben presente che siamo ancora e siamo un centro di vita, vorrei dire questo. Siamo un centro di vita presente, insomma, siamo un luogo attivo, ecco. Quella di Corticella è una delle ultime case del popolo rimaste. Qual è il segreto per essere riusciti a essere vivi e presenti mentre tutto intorno in realtà si andava un po' sgretolando? Almeno 3 anni abbiamo deciso, dentro la Casa del Popolo ci sono 7-8 realtà, dai sindacati a partiti, a associazioni culturali, circoli arci, polisportive, associazioni che si occupano di adozione o di disagio, insomma 7-8 realtà che hanno deciso di lavorare insieme. Ci siamo dati un metodo di lavoro, condivisione di programmi, obiettivi, ed è stato molto più facile di quello che uno possa pensare. Lavorando nel rispetto di ciascuno, senza fretta, abbiamo costruito un percorso condiviso e sarà un po' l'esito anche di questa nuova stagione iniziata 2-3 anni fa insieme. Ecco, forse in città, la Casa del Popolo di Corticella è più nota con il nome di Candileias, che però è semplicemente la sala, e poi c'è tanto altro, no? Sì, intanto ricorderemo anche i mitici giovedì sera della discoteca del Candileias, il salone su attualmente è utilizzato per serate danzanti, per la tombola, per feste private, ma abbiamo anche al piano terra un bellissimo teatrino per 50 persone, appunto pensato negli anni 70 in una logica di qualificazione delle periferie. Abbiamo una palestra con oltre 300 utenti che vengono, frequentatori, dagli anziani che fanno la ginnastica di mantenimento ai ragazzini del judo, del karate al pomeriggio. Poi abbiamo delle sale riunioni. Insomma, la cosa interessante negli ultimi anni è che la Casa del Popolo è diventato anche un luogo molto spirituale. Ci sono gruppi di cittadini italiani ma e stranieri che hanno bisogno di trovarsi anche per riflettere, pregare, vivere insieme, e noi ci siamo aperti anche a questo, ecco. Ma accanto a questo abbiamo le serate con le drag queen, quindi il perimetro è estremamente ampio, molto molto ampio, e ognuno ha il suo diritto di cittadinanza, diciamo così. Un'ultima domanda è una riflessione più generale: in un'epoca in cui, come dire, la divisione, l'individualismo e anche l'odio la fanno da padrone, il modello delle Case del Popolo dove c'è incontro e comunità è come dire un antidoto? Ah, questa è proprio la nostra sfida. L'individualismo lo aboliamo nel nostro modo di essere. Credo che ci sia un grande senso di solitudine tra le persone, e quindi credo che la funzione delle Case del Popolo possa essere ancora veramente attuale. E questa è la nostra sfida, ne sono personalmente molto convinto, e quindi continueremo in questo senso. Non c'è bisogno di un posto dove qualcuno ti giudichi, dove qualcuno ti dica se vali o non vali, ma c'è sempre più bisogno di un posto che ti rispetti e che ti accolga per quello che puoi dare. E questo è un po' il nostro modo di lavorare, per cui andiamo avanti e vi aspettiamo in tantissimi per conoscerci.